perfetto giorno di Alessio Maurizi. Virus cinese, è stato il serpente a contagiare l'uomo a Wuhan. Secondo i ricercatori dell'Università di Pechino, le vittime salgono a 25 a Fiumicino. Controlli con lo scanner sui passeggeri in transito. Davos, il premier italiano Conte diserta il vertice per urgenti impegni di governo, maggioranza alle prese con l'addio di Di Maio. Roma, pedone muore investito da un autobus di linea, autista sottoposto a controlli tossicologici. Locri, prendevano il reddito di cittadinanza ma avevano ville e macchine di lusso, la finanza incastra 300 tra evasori e truffatori. Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso, le città più inquinate in questo inizio 2020, l'anno scorso record di smog a Torino, lo rivela il rapporto malaria di Legambiente. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24 fino alle 13.15 e la sintesi della giornata di oggi, poi a partire dal 1:15 e tutti i nostri approfondimenti. Cominciamo dalle ultime scoperte dei ricercatori dell'Università di Pechino sulle origini del virus cinese. Sarebbe arrivato all'uomo dai serpenti, lo indica un'analisi genetica pubblicata dal Journal of Medical Virology dai ricercatori di Pechino e Guangxi. Intanto sono stati sottoposti a stretti controlli i passeggeri cinesi atterrati oggi a Fiumicino provenienti da Wuhan. Erano tutti sani. Il virus cinese è arrivato all'uomo dai serpenti, a dirlo una ricerca secondo la quale sarebbero loro gli animali nei quali il virus trasmesso dai pipistrelli si sarebbe ricombinato e poi passato all'uomo. A Fiumicino oggi sono passati in un canale sanitario dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo, i 202 viaggiatori provenienti dalla città cinese di Wuhan, epicentro del coronavirus. A loro sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio. Appositi scanner hanno controllato la temperatura corporea dei passeggeri del volo, che stanno tutti bene. Il volo di ritorno della China Southern Airlines invece non partirà per la città che è stata isolata. In quarantena anche un'altra città, Wangang, a circa 60 chilometri di distanza da Wuhan. L'OMS deciderà oggi intanto se e quali contromisure adottare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E le ultime notizie proprio di questi istanti che arrivano sul virus cinese sono che la città di Pechino ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese a causa proprio del coronavirus, mentre l'aeroporto di Dubai, notizia proprio di pochi istanti fa, il più grande scalo del Medio Oriente, ha deciso di controllare con gli scanner tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina, e quindi non soltanto quelli provenienti dalla città di Wuhan. E adesso cambiamo argomento, parliamo del vertice di Davos. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha fatto sapere che non sarà al forum come previsto, appuntamento annullato per urgenti impegni di governo. Una maggioranza sempre più inquieta, a sorpresa il premier Giuseppe Conte non partecipa al forum economico mondiale a Davos in Svizzera. Era atteso nel primo pomeriggio per il suo special address alla comunità degli investitori e dei leader politici. Fonti governative parlano di impegni che lo trattengono a Roma. Difficile non collegare la mancata presenza internazionale alle grane in seno alla coalizione, prima tra tutti quella dell'addio di Luigi Di Maio alla leadership 5 Stelle, Vito Crimi e gente, anche se si guarda alle regionali di domenica prossima, per capire realmente se il governo reggerà all'urto di un'eventuale sconfitta in Emilia-Romagna. Nel frattempo l'esecutivo va avanti e il CDM si riunisce per nomine importanti. Questa sera Ernesto Maria Ruffini dovrebbe ridiventare direttore dell'Agenzia delle Entrate, c'era già stato col governo Gentiloni. Ai vertici di De Manio e Dogane, in pole position Antonio Agostini, considerato vicino ai 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul cambio annunciato ieri ai vertici del Movimento 5 Stelle, l'analisi di Daniele Biacchessi. Le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico, la transizione di Vito Crimi, gli stati generali di marzo, la nomina di un nuovo leader e il percorso irto e difficile della rifondazione del Movimento 5 Stelle, travolto da una crisi dalle origini antiche e che nelle ultime settimane ha registrato una forte accelerazione, le dimissioni di numerosi parlamentari, l'abbandono del ministro Lorenzo Fioramonti alla guida del Dicastero dell'Istruzione, l'espulsione di Gianluigi Paragone, la tendenza negativa che dimezza la consistenza elettorale dal 32% delle politiche del 2018 allo streaming sito 16% valutato oggi dai sondaggi. La fine della leadership di Di Maio giunge nel punto più alto delle guerre interne tra le varie correnti nazionali e locali che fanno assomigliare 5 Stelle sempre più ad un vecchio partito che a un movimento. E qui sta il punto. Non sono tanto l'alleanza con il PD, l'incapacità di Di Maio e di Beppe Grillo di tenere unite le varie anime, oppure le fregole egocentriche di qualche nuovo capetto. La crisi del 5 Stelle è in primis di tipo identitario, un movimento diventato partito che si muove come tutti gli altri partiti e perde la sua connotazione, disperdendo così la spinta propulsiva iniziale. Gli elettori hanno avvertito questo cambiamento e in molti lo hanno abbandonato. In vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, intanto la commissione antimafia ha vagliato le liste a caccia dei cosiddetti impresentabili. In Emilia-Romagna un candidato ha riportato una sentenza in primo grado di condanna per la legge Severino. Qualora eletto sarebbe sottoposta a sospensione di diritto la carica di rappresentante della regione. Per la Calabria sono due i casi in posizione rilevante, lo ha detto il presidente dell'antimafia Nicola Morra. La cronaca: un uomo è morto dopo essere stato investito da un autobus di linea. Ieri sera nel piazzale della stazione Tiburtina a Roma, l'uomo, che era stato portato in ospedale in gravissime condizioni, non è stato ancora identificato perché senza documenti. Nuova truffa ai danni del fisco in Calabria. La Guardia di Finanza questa volta ha scoperto quasi 300 persone, alcune di queste percepivano il reddito di cittadinanza ma possedevano ville e auto di lusso. Risultavano nullatenenti, percepivano il reddito di cittadinanza, intanto avevano ville e perfino una Ferrari, ma erano anche titolari di partita IVA ed imprese e avevano dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi, alcuni addirittura in carcere perché mafiosi. Sono i 237 furbetti evasori insieme ad altri 73 che tra aprile e dicembre del 2019 hanno chiesto il reddito di cittadinanza e che sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Locri e avranno conseguenze, come spiega il capitano Giorgio Silvestri. Le somme indebitamente percepite ammontano a circa 870.000 euro. La cosa che però è stato possibile fare è stata quella di segnalare questi nominativi all'INPS, che oltre al recupero di questa somma provvederà al blocco dell'erogazione, permettendo così alle casse statali di non erogare contributo per circa 1 milione di euro. I furbetti sono stati quindi segnalati all'INPS per il blocco del pagamento del reddito per i prossimi mesi e sanzioni per le false DSU, dichiarazioni sostitutive uniche, che sono la base della richiesta di reddito. Dovranno restituire e ci saranno delle sanzioni che saranno comminate dalla Procura e dall'INPS. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prosegue l'emergenza incendi in Australia. Un aereo antincendio, dopo essere scomparso dai radar, è precipitato. Nello schianto sono morte 3 persone, tutti cittadini statunitensi della società canadese Coulson Aviation, impegnata nella lotta contro gli incendi. E negli Stati Uniti invece nuova sparatoria a Seattle. Un litigio e poi gli spari fuori da un McDonald's in un'area trafficata e molto frequentata dai turisti a Seattle ha causato una vittima, una donna di circa 40 anni e 7 feriti. Tra questi un'altra donna di circa 55 anni e un bambino di 9 in gravi condizioni. Non è ancora chiara la dinamica della sparatoria, ma secondo la polizia di Seattle, che ha visionato i filmati di alcune telecamere di zona, più persone avrebbero sparato dopo questa lite fuori dal fast food, a differenza delle ricostruzioni iniziali che indicavano un unico aggressore. Per il capo della polizia Carmen Best ci sono dunque diversi sospettati e non è stato un incidente casuale. Le indagini proseguono, ma questa davanti al fast food di Seattle è la terza sparatoria avvenuta nella città in meno di 2 giorni. Ciò nonostante, lunedì scorso a Richmond, capitale della Virginia, circa 22.000 persone hanno partecipato a una grande manifestazione a favore delle armi e del secondo emendamento della Costituzione americana, per il quale il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto. Tutto questo in un paese, gli Stati Uniti, dove solo nel 2019 ci sono stati in assoluto più omicidi di massa degli ultimi 50 anni. Sono stati infatti ben 41 gli episodi censiti in cui hanno perso la vita 211 persone. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per l'economia ora ci sono i dati INPS negativi, quelli sulla cassa integrazione che è in aumento a causa di diverse crisi aziendali, positivi invece i dati sui contratti di lavoro stabili che sono in forte crescita. Per la prima volta dal 2012 torna a crescere la cassa integrazione. Lo scorso anno l'INPS ha infatti autorizzato alle aziende oltre 259 milioni di ore, con una crescita del 20,2% sul 2018. I dati emergono dal bilancio dell'osservatorio INPS sulla cassa integrazione. A spingere la risalita è soprattutto il ricorso alla cassa integrazione straordinaria chiesta dalle imprese per ristrutturazione, riconversioni o gravi crisi aziendali. La cassa integrazione straordinaria lo scorso anno è cresciuta del 31,2%. L'INPS ha anche aggiornato i dati sui contratti. Nei primi 11 mesi del 2019 è aumentata l'occupazione stabile. I contratti a tempo indeterminato hanno superato quota 438.000, segnando una crescita del 111% rispetto ai primi 11 mesi del 2018. I contratti stabili continuano a crescere soprattutto grazie all'aumento delle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora siamo al rapporto di Legambiente Malaria, che parla delle città più inquinate. Non solo Nord, c'è anche Frosinone. Solo conferme purtroppo dalla classifica dei capoluoghi italiani che più soffrono per l'inquinamento atmosferico diffusa da Legambiente nell'annuale rapporto Malaria. Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso sono i centri urbani che hanno superato per più giorni i limiti di PM10 in questo primo scorcio di 2020. In meno di un mese hanno raggiunto quasi la metà dei limiti annuali, 35 giorni per le PM10, 25 per l'ozono. L'anno scorso la peggiore era stata Torino, con 147 giorni di sforamenti cumulativi, seguita da Lodi e Pavia. Torino è la maglia nera anche del decennio 2010-2019, nel quale è risultata 7 volte prima in classifica. La minaccia per la salute umana è serissima, dice Legambiente. Ogni anno sono oltre 60.000 le morti premature in Italia riconducibili all'inquinamento, con un danno economico di milioni, stimato sulla base dei costi sanitari, e senza contare le sanzioni europee e le azioni legali intraprese da cittadini e associazioni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, facciamo una pausa. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Parleremo della classifica internazionale della corruzione percepita. Ebbene, l'Italia migliora, strano a dirsi, proprio nel giorno in cui una nuova truffa ai danni del fisco è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Eppure è così, cercheremo di capire e vi racconteremo i motivi per i quali l'Italia migliora in questo ambito. E poi il caso di Bellinzago in provincia di Milano, dove il comune rischia il commissariamento per troppe quote rosa in giunta. 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno per commentare le notizie di oggi. A tra poco. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto Giorno. Il virus cinese, contagio trasmesso dai serpenti, secondo i ricercatori di Pechino. Le vittime salgono a 25, annullati i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Davos, il premier italiano Conte diserta il vertice per urgenti impegni di governo. Locri prendevano il reddito di cittadinanza ma avevano ville e macchine di lusso. L'Italia sale al 51esimo posto nella classifica di Transparency International sulla corruzione percepita. A cosa dobbiamo questi progressi? Ne parliamo tra poco. Gorizia, migrante nel del centro rimpatri, morto in carcere. Secondo diverse testimonianze è stato pestato dagli agenti. A effetto giorno la denuncia di Riccardo Maggi. Videoclip come opere d'arte potranno usufruire del tax credit, annuncia il ministro Franceschini. Ecco come l'industria musicale e cinematografica potrà beneficiarne. Cresce 16 minuti, di nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio, Effetto Giorno, e queste erano la sintesi, i titoli della notizie di oggi. Come avete sentito c'è anche quella per cui l'Italia risale qualche posizione, ma più che altro in prospettiva, nella classifica della corruzione percepita internazionale stilata da Transparency International. Con noi Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, ho già detto che può sembrare strano proprio nel giorno in cui si scopre una nuova truffa ai danni del fisco da parte di percettori del reddito di cittadinanza in Calabria che avevano auto di lusso e ville. Ieri invece è accaduto dipendenti dell'ASL sempre di Reggio Calabria che insomma andavano durante l'ora di lavoro a giocare alle slot, a fare la spesa o al mare. Eppure insomma, se noi guardiamo negli ultimi anni, l'Italia è risalita in questa classifica della corruzione percepita a livello internazionale. Carnevali, intanto come viene misurato questo indice? Spieghiamo bene questo aspetto, perché voi fate un sondaggio tra persone, diciamo testimoni particolari, poi di lì stilate la classifica, giusto? No, non è esattamente così. Noi rielaboriamo sondaggi fatti da altre, dalle principali istituzioni mondiali. Quindi noi rielaboriamo semplicemente i sondaggi fatti da altri, non facciamo sondaggi. Quindi mettete insieme dei dati che sono disponibili. Esatto. Diciamo, riallineiamo, li rielaboriamo in modo che siano confrontabili. E questi dati per quanto riguarda l'Italia quali sono? Che dati sono? In che senso dati sono? La posizione sono. Dell'Italia da cosa deriva? Cioè come misurate la posizione dell'Italia rispetto agli altri paesi? La posizione dell'Italia deriva da, noi facciamo l'analisi di tutto quello che è, viene di tutte le analisi che vengono fatte, le ricerche di varie istituzioni e su 180 paesi del mondo, e stiliamo una graduatoria, diamo un voto, diciamo, no? Un voto che in centesimi, quindi noi siamo passati da 52 a 53, quindi abbiamo migliorato leggermente il nostro voto. Tanto per intenderci, per chi andava a scuola ai miei tempi, un 5,5, ecco. Ecco, siamo su, quindi non ancora la sufficienza. È vero però, esatto, che se guardiamo in prospettiva, adesso poi arriviamo anche alle cose che ad oggi non vanno secondo questo rapporto per quanto riguarda la corruzione in Italia, però se guardiamo le cose in prospettiva dal 2012 ad oggi, ho detto può sembrare strano, ma l'Italia ha scalato posizioni, perché in effetti dal punto di vista del sistema paese, cioè io parlo della questione politica, affari, appalti, bandi, concorsi pubblici, cioè, ci sono delle leggi di sistema che sono state fatte, legge anticorruzione, nascita dell'autorità anticorruzione tra il 2012 e il 2014, esatto. Quello che voi segnalate, cosa hanno significato questi passaggi? Hanno significato che noi abbiamo fatto delle cose importanti contro la corruzione. Oggi l'Italia è additato come uno dei paesi che ha la migliore organizzazione legislativa e organizzativa anticorruzione. Quindi dei passi sono stati fatti dei passi importanti avanti per quello che riguarda. Chiaramente tutto non è risolto, il nostro voto lo dice, però sono stati fatti dei passi avanti che ci vengono riconosciuti anche a livello internazionale, e da questo vedere il miglioramento della situazione dell'Italia nel nostro indice. Ecco, leggendo tra le righe del rapporto per quanto riguarda l'analisi dell'Italia, si legge che quello che manca ancora riguarda per esempio due importanti questioni: la criminalità organizzata, che spesso sceglie proprio la corruzione come arma per i suoi affari, e anche una regolamentazione della questione dei conflitti di interessi, giusto? E del lobbying. Ce lo spiega? Cosa importante. Sì, certo. Beh, che la criminalità organizzata utilizzi la corruzione ormai è acclarato da numerose inchieste e indagini. Lei capisce che oggi è più comodo per loro corrompere qualcuno piuttosto che utilizzare mezzi più aggressivi, diciamo. Se minacci una persona te ne fai un nemico, se lo corrompi te ne fai un socio. E quindi è chiaro che la corruzione ha sempre più spazio. Ha preso il posto della minaccia, dell'intimidazione, della violenza del passato. Non proprio il posto, ma dice ha preso uno spazio importante anche di quello. Quindi questo è il motivo sostanzialmente. Oggi abbiamo la criminalità organizzata dei colletti bianchi, non abbiamo più solo i pastori, voglio dire, no? Quindi c'è tutta un'organizzazione di colletti bianchi e compagnia che è più propensa e più addetta a usare la corruzione piuttosto che altri mezzi. Questo è il primo passo. E per quello che riguarda le leggi che noi riteniamo fondamentali, cioè la legge per il lobbying e sul conflitto di interessi, è chiaro dirlo, insomma, il lobbying esiste in tutto il mondo, far finta che non esista non volendo regolamentarlo è semplicemente un'ipocrisia, quindi è meglio accettare che esiste un sistema di lobbying che molte volte è anche un lobby, è anche giusto, perché molte volte porta avanti degli interessi legittimi di categorie. E quindi non c'è nessun motivo per cui non debba essere assolutamente tutto sta proprio esatto nella regolamentazione, in modo che la cosa possa diventare trasparente, in modo che gli certo. interessi legittimi non si confondano con gli illegittimi e gli interessi illegittimi non si nascondano dietro gli interessi legittimi. Grazie Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, grazie per essere stato con noi. E aggiungiamo solo, diciamo per completezza, che la classifica della corruzione percepita è dominata in positivo, cioè dove c'è meno corruzione percepita, dalla Danimarca e dalla Nuova Zelanda, come già avveniva anche l'anno scorso. Invece il fondo del ranking è occupato in negativo, quindi dalla Somalia e dal Sud Sudan. Adesso invece vogliamo tornare a parlare di un annuncio che è stato fatto in realtà ieri, ma siamo andati con Marta Cagnola a capire quali sono le conseguenze per l'industria cinematografica e anche l'industria musicale dell'annuncio del ministro Franceschini, cioè che i videoclip sono da ritenersi video musicali a tutti gli effetti delle opere d'arte e per questo rientreranno nei benefici del tax credit. Marta Cagnola ne ha parlato con, ha intervistato Enzo Mazza, presidente della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Sicuramente, intanto perché c'è un tax credit, quindi c'è un intervento fiscale sugli investimenti che vengono fatti per creare i videoclip. Quindi questo risultato è importante per tutto il settore, sia gli artisti, sia coloro che producono i videoclip, ma anche per le case discografiche che poi fanno una buona parte dei loro investimenti promozionali proprio anche sul videoclip. Si faranno probabilmente più videoclip, ma sicuramente videoclip di maggiore qualità perché si potrà investire di più. Sicuramente i videoclip sono un fenomeno molto importante, soprattutto nell'era visuale che abbiamo proprio oggi, legata, come sapete, anche all'utilizzo di piattaforme di video sharing che chiaramente sono basate su video. Pensiamo anche a quel lavoro che stanno facendo alcuni importanti registi di creare dei video ex novo per brani musicali che il video nella storia della musica non hanno avuto. Questo per esempio è un esperimento molto interessante che ha un valore culturale enorme. Questo lavoro viene fatto proprio anche in Italia. minuti e con noi Riccardo Magi, onorevole dei Più Europa Radicali. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Magi, che ha dato il via ad una denuncia che riguarda una morte, una storiaccia possiamo dire, per ora non si sa moltissimo, però lei ha raccolto le testimonianze. La storia è quella di Vakhtang Enukidze, georgiano di 38 anni, che si trovava nel centro per i rimpatri di Gradiska, e in seguito poi a una colluttazione con un altro immigrato è stato mandato in carcere, nel carcere di Gorizia. Poi, giudicato per direttissima, tornato nel centro rimpatri, è morto dopo due giorni. E ci sono diverse testimonianze magiche che dicono che questo ragazzo di 38 anni è stato picchiato e trascinato per i piedi da alcuni agenti, è stato violentemente pestato. Ecco, quindi questo è quello che sarebbe all'origine di una morte. Lei ha detto, sembra di trovarci di nuovo a un caso Cucchi, perché un uomo è entrato vivo in una struttura struttura dello Stato, ne è uscito morto. Intanto le voglio chiedere, Magi, chi era Vakhtang Enukhidze? Ma io ho pochissime informazioni su di lui. So che era un cittadino georgiano che di 38 anni, che è proveniente da un altro CPR, il centro per i rimpatri di Bari, insieme ad altri, diciamo così, ospiti attuali del centro di Gradisca. Mi hanno detto che a breve sarebbe stato probabilmente rimpatriato. Ho letto che ieri alcune dichiarazioni della sorella, che riportate dalle agenzie, che diceva di averci parlato il giorno prima della sua morte, che lui le ha riferito di stare male, ma non le avrebbe riferito la causa di questa condizione di salute, e che in generale però, insomma, lei se lo ricordava come una persona sana e in salute. Ecco, lui si trovava all'interno del centro per i rimpatri di Gradisca perché evidentemente non aveva le caratteristiche per avere una protezione. Ma chi è che gestisce la sicurezza, per esempio, all'interno di questi CPR? Questi sono dei luoghi un po' anomali da un punto di vista del diritto e delle regole. Sono centri dedicati a una detenzione di tipo amministrativo. Diciamo, semplificando, che ci stanno due tipi di persone: ci sono persone irregolari in condizioni appunto di non regolarità amministrativa, che magari non hanno mai commesso un reato, semplicemente sono stati fermati e non avevano il titolo di soggiorno, il permesso di soggiorno lo avevano scaduto magari perché avevano perso il lavoro e non erano riusciti a rinnovarlo. Ma la cosa incredibile è che in Italia, diciamo, sono in questi centri ci sono poche migliaia di persone che si trovano in una condizione simile a quella di altre centinaia di migliaia, sì, di persone che sono fuori. E un'altra tipologia è invece di chi ha finito di scontare una pena in carcere e sta attendendo lì che si facciano le pratiche, che il nostro Stato faccia le pratiche con il paese di origine per espellerli, appunto. Il famoso rimpatrio. Senta, qual è, Magi, qual è la versione invece ufficiale delle forze dell'ordine e, insomma, di chi lo aveva sotto tutela in quelle ore? Beh, in realtà non c'è una versione ufficiale. I media, le prime notizie che hanno riportato su questo fatto sono notizie di una rissa che sarebbe avvenuta all'interno del centro e poi della morte di questo cittadino georgiano. Però io, in tutte le persone con cui ho parlato, sia ospiti, diciamo compagni di cella, ma anche operatori del centro, dell'ente gestore della cooperativa che gestisce alcuni servizi nel centro, ma anche un agente, sono testimonianze univoche nel dire che quella colluttazione non può aver causato delle lesioni mortali, anche perché diciamo il georgiano ha avuto la meglio rispetto all'altro ragazzo con cui ha quindi avuto non questa sarebbe stato quello l'origine, diciamo, dei colpi. Invece tutti gli ospiti, diciamo, del centro mi hanno riferito di un intervento proprio per separare i due in questa colluttazione, un intervento molto pesante da parte di una decina di agenti che lo avrebbero immobilizzato e colpito ripetutamente, poi trascinato via. A quel punto il ragazzo georgiano scompare dal centro, riappare, sappiamo che va in carcere, riappare due giorni dopo, e ci sono i racconti, viene messo in un'altra sezione del centro, e ci sono i racconti di chi ha trascorso con lui le ultime due giornate, in particolare l'ultima notte di agonia del ragazzo, racconti tragici che descrivono delle condizioni di salute molto serie, molto gravi, che non riusciva a stare in piedi, in posizione eretta, era pieno di lividi. E quindi l'altra domanda è: siamo in una struttura dello Stato in cui, certo, ci dovrebbe essere anche un presidio medico e quindi un'attenzione alle esigenze mediche delle persone che sono lì. Riccardo Magi, grazie per ora per essere stato con noi. Grazie. Saremo a vedere, naturalmente la procura sta indagando e, insomma, si dovranno chiarire le dinamiche di quello che è accaduto. A chi scrive un ascoltatore: si chiamano clandestini non ospiti, se perdi il diritto devi tornare al tuo paese. Io aggiungo semplicemente: sì, ma magari vivo. E questo, insomma, non dimentichiamocelo. 13:30 349-238-6666 se volete commentare le notizie di oggi, compresa questa storiaccia di Gradisca. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco dopo il break. Vi racconteremo anche la storia di Bellinzago, dove la giunta rischia il commissariamento perché è una giunta troppo rosa. Foto di gattini, canini, un testo su quale verdura assomiglio. Online c'è di tutto, ma anche qualcosa di serio. Zurich Connect ti offre una polizza auto da 220 euro. Essere online è una cosa seria. Zurich Connect, online, da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zurichconnect.it. Dal 18 al 20 marzo 2020, a Padova, seconda edizione di Green Logistics Expo. Una fiera B2B con i leader dell'intermodalità ferroviaria e del trasporto merci, della logistica per l'industria e della portualità, dell'e-commerce e della governance urbana. Green Logistics Expo, Fiera di Padova, dal 18 al 20 marzo 2020. Benvenuti nel simulatore di viaggio F24. Elaborazione dello scenario desiderato. Per fortuna il futuro è più avventuroso di come lo avevano disegnato. Range Rover Velar, oggi tua da 550 euro al mese con Land Rover Leasing, anche per privati. TAN 395, TAG 465, salvo approvazione della banca, info su landrover.it. La formazione si fa in azienda. Academy Italia del Sole 24 Ore è la prima rassegna dedicata alle accademie aziendali. Dall'automotive alle assicurazioni, dall'agroalimentare alla moda. Scopri il panorama completo delle offerte formative con una guida pratica e aggiornata. Academy Italia, giovedì 23 gennaio in edicola con il Sole 24 Ore. Da Anystation c'è una novità che non vediamo l'ora di dirti. A febbraio, per chi paga il rifornimento con carte Banco Posta o PostePay, arrivano gli sconti Poste. E già da oggi, con carta di pagamento, puoi pagare i bollettini postali premarcati. Scopri le stazioni aderenti e le carte di pagamento utilizzabili su anystation.com. Anystation, puoi farci anche rifornimento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per informazioni sull'iniziativa Sconti Poste vai su poste.it. Per il pagamento dei bollettini postali consulta il fascicolo informativo presso le stazioni aderenti. Effetto giorno. Il virus cinese contagio trasmesso dai serpenti, secondo i ricercatori dell'Università di Pechino, le vittime salgono a 25. Davos, il premier italiano Conte diserta il vertice per urgenti impegni di governo, maggioranza alle prese con l'addio di Di Maio. Loki riprendevano il reddito di cittadinanza, ma avevano ville, macchine di lusso, la finanza incastra 300 tra evasori e truffatori. Bellinzago, la giunta del piccolo comune è troppo rosa, ci vuole un assessore maschio, dice il prefetto di Milano, ma per la sindaca la sua squadra riequilibra gli altri municipi dove ci sono solo uomini. Non solo nord, c'è anche Frosinone tra le città con l'aria più inquinata. Inizio 2020, l'anno scorso record di smog a Torino, lo rivela il rapporto malaria di Legambiente. Minuti, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, con effetto giorno, i vostri messaggi, è questo lo spazio, 349-238-6666, c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. Allora, sulla storia del migrato morto nel centro per rimpatri di Gradisca, dopo essere stato in carcere a Gorizia, morte per cui si sospetta che sia stata causata forse anche da un pestaggio o comunque un eccesso, diciamo così, di intervento da parte delle forze dell'ordine all'interno del centro. Ci sono diversi messaggi. Piero scrive: i centri per i rimpatri dovrebbero essere aperti anche ai giornalisti, parlamentari, eccetera. In uno stato di diritto, se l'Italia lo è ancora, non ci possono essere zone grigie. E questo è il messaggio di Piero, che mi sembra condivisibile. Un altro ascoltatore, e siamo sulla sponda opposta naturalmente, scrive: se stanno a casa sua, diciamo a casa loro, quantomeno l'italiano usiamolo correttamente, non gli succede nulla, si chiamano danni collaterali ammissibili. Caro ascoltatore senza firma, questo messaggio, oltre a essere di una demenziale inumanità, mancanza di umanità, è anche una mancanza di demenziale di cervello, di intelligenza, perché può capitare a tutti di finire questo signore ha passato dentro un carcere, non dimentichiamoci il caso Cucchi, dentro un carcere per un errore si è sotto la tutela dello Stato e quindi può capitare anche a te. Allora, è il momento invece del punto politico oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Forse ha fatto bene il premier Giuseppe Conte a non partecipare al forum di Davos. È il giorno di Angela Merkel che con ogni probabilità avrebbe oscurato il messaggio italiano. Ma non è questo il punto vero, è che sarebbe stato impossibile evitare l'effetto tragicomico degli scostamenti tra il Conte 1, che ha debuttato a Davos lo scorso anno come leader sovranista e populista, e il Conte 2 di oggi, europeista convinto e leader di una coalizione di centrosinistra. Il tempo in politica è una variabile decisiva per scegliere i cambi di rotta, ma il tempo diventa anche testimone scomodo quando ti costringe a leggere le contingenze e farle diventare storia. Così il Conte 1 diceva che sognava un'Europa fatta dal popolo e per il popolo. Il popolo è la nostra parola chiave, diceva. È chiaro che il Conte 2 ha cambiato password. Col linguaggio un po' obliquo lasciava intendere che l'euro non era un mito intoccabile. Gli italiani sono stati pazienti per molti anni, diceva, ma la reale implementazione dell'euro è stata molto diversa. E la BCE? Possiamo dire, era la tesi testuale tendenza a Bagnai Borghi, che la BCE, essendo una banca centrale, non ha potere valutario adeguato? Ma il top era questo. Lavoro molto bene con il mio team e non c'è nessuna prospettiva di diversa composizione del governo. Non è andata così, come è noto, ma come glielo spieghi ai miliardari di mezzo mondo, per di più in inglese? Era come annunciato dai titoli il caso di Bellinzago Lombardo, dove c'è una giunta che sembra essere troppo rosa in un paese nel quale ci si è dovuti occupare delle quote rosa per far aumentare la presenza delle donne in politica. Ebbene, qua forse si è esagerato. Il prefetto infatti chiede un riequilibrio. È con noi Michele Avola, vice sindaco di Bellinzago Lombardo, benvenuto. Buongiorno, grazie, buona giornata a tutti. Beato tra le donne, perché lei è l'unico uomo di una giunta dove ci sono altre tre assessori donne. Parliamo di un piccolo comune, giusto? Sì, stiamo parlando di un comune di 3.870 cittadini, ecco. Ecco, ma come mai si è creata una situazione di questo tipo? È stata una scelta precisa mettere più donne che uomini, cioè superare la soglia del 40% prevista dalla legge del Rio, oppure è stato un caso, insomma? Ma no, guardi, in realtà, dunque, noi eravamo partiti con una lista, una lista civica naturalmente, che era piuttosto ben equilibrata, in prevalenza naturalmente femminile, era proprio per dare un segnale molto chiaro da quel punto di vista, quindi è come dire il coinvolgimento più ampio di donne all'interno appunto della nostra attività politica. Vi è partita la mano praticamente. No, in realtà poi per la verità sono stati i voti, sono stati i cittadini onestamente, sì, a decidere, perché Le tre assessore, chiamiamole così, presenti attualmente in giunta sono tra le più votate, che hanno ricevuto maggiori preferenze. Quindi in ossequio a questo principio, sindaco, più voti prendi, esatto, più sei papabile, le ha nominate tutte e tre assessori. Sì, scelte per i meriti, non tanto per le competenze, per, certo, le capacità, non tanto per il genere, diciamo così. E quindi al sindaco è venuto, come dire, naturale, no? Dare incarico ai tre assessori donne, perché perché donne, ma perché competenti sui vari settori che oggi loro svolgono con grande capacità. Ecco, ma vice sindaco Avola, come avete, sì, accolto la questione del prefetto di Milano che ha chiesto un riequilibrio? Cioè, ve l'aspettavate? Pensate di passare inosservati un piccolo paese? Ce ne sono tanti dove spesso si fa fatica a coinvolgere magari le donne in politica, anche se è sempre meno vero questo, bisogna dire la verità, e voi ne siete una, sì, dimostrazione. Come è arrivata la notizia del prefetto che chiede un riequilibrio? Sì, noi non l'aspettavamo onestamente, dico la verità, proprio perché è un comune piccolino. Poi noi, come già detto, insomma, noi siamo in un'unione di comuni, siamo in quattro comuni qui nella Martesana che si sono messi insieme, hanno formato questa unione che ha tutte le caratteristiche, insomma, per governare l'unione. Vi siete fusi o è una giunta? No, non è una fusione, solo l'unione. No, è un ente superiore, diciamo così, è un ente che sta sopra, ma che sostanzialmente ha una giunta, ha un consiglio sì, dell'unione e una giunta dell'unione. Ma adesso cosa farete? Come pensate cercherete di andare incontro alla richiesta del prefetto, quindi sostituite l'assessore, oppure diciamo, forti del vostro punto di vista, che ne so, ne farete magari una battaglia di principio? Guardi, noi abbiamo scritto proprio oggi pomeriggio, partirà la lettera, perché la scadenza al difensore civico in modo particolare era domani. Quindi, sì, noi oggi abbiamo scritto le nostre motivazioni, abbiamo scritto una lettera spiegando le motivazioni della scelta, no? Il motivo per cui c'è stato questo, diciamo così, squilibrio, chiamiamolo, di genere. Ma ci aspettiamo una risposta positiva, non lo so, per riuscire a mantenere, anche per una questione davvero importante in questo periodo, che è quello proprio della presenza delle donne appunto nelle istituzioni, come se fosse una sorta di messaggio, no? Intendo dire, nella ratio di questa legge del Rio, la 56 del 2014, penso sia proprio stato quello di difendere la presenza delle donne nelle istituzioni, e se la ratio è quella, allora a questo punto noi l'abbiamo fatto più l'avete più fatto bene, di no? Più. Allora io la ringrazio vice sindaco Avola per essere stato con noi. Effettivamente la legge è legge, va rispettata, però è una legge che è servita per aumentare la quota di donne presenti in politica. Se in questo caso si è andati un po' oltre, forse ci può essere un po' di tolleranza per evitare cortocircuiti spiacevoli, io immagino. Poi forse una esenzione anche magari per i piccoli comuni dove si fa fatica a pareggiare uomini e donne, se si parla di 3.000 abitanti, quanti sono effettivamente quelli disponibili poi a fare gli assessori. Bene, chiudiamola qua. Alle 13.44 invece parliamo di sport. Anche oggi bisogna guardare, Carlo Genta, ciao, ciao, i tabellini delle partite di tennis. Cioè, sentivo... Sì, Seppi fuori contro Wawrinka, ecco. da sfavorito, e rimangono dunque in pista Fognini, che ieri ha vinto una partita lunghissima, abbiamo provato a... Non siamo riusciti ad arrivare al finale, quasi quasi non ce la faccio nemmeno. Non ce l'avete fatta ieri? Io ce l'ho fatta. Ah, ce l'hai fatta? Sì, sì, ecco, tutti i convocati sono riusciti. Noi a no, perché era stava finendo. Per questione di tempo, è andata lunga, quinto set, però Fognini rimane in gioco insieme a Camila Giorgi, gli unici due superstiti italiani. Certamente è superstite la Juventus anche in Coppa Italia, una specie di laboratorio per Sarri, dove sta sperimentando tutte le sue varie alchimie. Poi certamente saprai che c'è stata una cena della Spectre a Londra. No, non so niente. No. Beh, di cosa parliamo? I quattro principali agenti del calcio italiano, del calcio mondiale, sì? Raiola, Mendes e altri due soci, si sono trovati in un ristorante di Londra. Spiegheremo a fare cosa e perché. Poi certamente saprai che Barcellona e Real Madrid sono andati in tournée a Ibiza, a Salamanca. No, sapevo neanche questo, ovviamente. Perfetto. Raccontiamo tutto questo. Anche con gli ascoltatori, 349-238-6666, WhatsApp, vocali, sullo sfondo sempre anche il mercato, che vive gli ultimi giorni con grande attenzione sull'Inter. Bene, Spinazzola rimane a Roma allora? Pare di sì, ma Politano non rimarrà all'Inter. Sì, forse c'è va a Napoli. Questa asse Inter-Napoli che sta nascendo, sulla quale possono scorrere diversi giocatori, ad esempio Llorente a Milano, ma magari anche all'Ana a Milano in cambio di Vessino. Insomma, proviamo a capire dopo. Grazie Carlo, appuntamento con te per tutti i convocati dopo il GR delle 14. Noi ci fermiamo un attimo per una pausa, poi torniamo con Giulia Crivelli e i giornali internazionali.